bavesino dentro al latte, mi piace da impazzire. Scaldo il pentolino, alzo un po' la fiamma, ma stando bene attento a non far uscire la panna. Sogno la ciambella e il suo buco bello caldo, spalmarlo di Nutella e poi leccare tutto quanto. E non ho tempo di pensare, devo andare a lavorare. Forse è meglio farci il nodo per fermare in ogni modo il chiodo. Fisso. Dell'ufficio tanto tempo da buttare, la matita un po' spuntata, comincio a temperare. Così poi la segretaria se ne avrà bisogno, con la mia punta di legno potrà farci un bel disegno. Sei una bomba con la gonna, ma ti serve anche la gomma. Ce l'ho dura come un sasso, ma cancella che è uno spasso. E non ho tempo di pensare, sono le 5 e devo andare. Oggi ho lavorato sodo per fermare in ogni modo il chiodo. Fisso. Stasera sai che c'è, cena al lume di candela. Ho preparato un bel soufflé, ne farà la pancia piena. L'accompagno col braghetto e lei mi sembra contenta. Appena messo dentro al piatto, subito lo addenta. Ho finito di mangiare, ci buttiamo sul divano. Per un poco ci fissiamo, lentamente avviciniamo. È la storia di una vita, tutti insieme a Federica. Tutti nello stesso modo per fermare questo cazzo di chiodo.